Buonasera Chiesa! Buonasera Chiesa! Oh, già andiamo meglio, siamo svegli? Buon anno da parte mia! Grazie, anche a te. Cioè, è bello, è bello. Chi è qui per la prima, seconda, terza volta? Posso vedere le mani? C'è qualcuno, benvenuti, grazie per essere con noi, grazie perché fai parte e sei accolto in una famiglia che ti vuole dare un profondo benvenuto. Quindi da parte nostra, grazie, non potevamo essere in una famiglia più benedetta, almeno Chiesa, lasciatemi dire una cosa, io sono profondamente benedetta nel far parte di una Chiesa che è a Marta. Io sono profondamente grata a Dio per Marta, perché arricchisce questa nostra famiglia in maniera straordinaria. Io sono molto benedetta dall'avere il mio pastore. Grazie a Dio per lui, per la sua vita, per la sua sapienza. Forse sono una delle poche a poter dire che è un amico, che è un fratello, che è testimone di nozze, ma che è il pastore migliore che poteva darci. Amen. Amen, siamo grati a Dio per il nostro pastore. Amen, amen, grazie pastore. Non ce ne abbiamo uno, ce ne abbiamo due. Io sono molto grata per il pastore Pinuccio che dimentica dopo 40 anni le notizie. E questo è bellissimo, pastore, perché io sono grata a Dio per te. Perché veramente tutti i programmi con te non servono. E io amo questo di te, tanto, tanto, tanto. È bellissimo. Questo è un po' un dietro le quinte. Noi siamo lì, no? In genere io e Luciana gli passiamo il microfono e diciamo, pastore, vai ora è il tuo momento. Oppure c'è Antonio con le notizie, noi facciamo il gobbo, ok? Quindi ci piace, noi amiamo essere questa chiesa. Io amo una chiesa che crede annualmente, che può dare con una generosità estrema per vivere grandi miracoli, amen? Chi è con me per questo? Chi si sente benedetto di una chiesa che non dà solo quando c'è una necessità o che non dà per dire, per coprire l'affitto, per pagare le bollette? Noi diamo perché crediamo che Dio voglia fare grandi miracoli tramite questa chiesa. Amen? E proprio in virtù di questo vogliamo vedere il video e oggi sono onorata perché sono anche una figlia benedetta e lo capirete tra un po', perché tra qualche settimana vivremo una grande raccolta miracolosa. Non so come lo vivi tu in famiglia, ma noi da quando, da ottobre, novembre, cominciamo a chiedere, Signore, che cosa vuoi da noi? Qual è il miracolo che vuoi che noi viviamo? Io e mio marito ci mettiamo insieme e sapete, facciamo i conti, come si fa in tutte le famiglie. E come ha detto il pastore, i conti non tornano mai. Quindi quando prendiamo quella busta e quella decisione, è una decisione che facciamo perché sappiamo che il nostro Dio è Lui che ha il controllo sulle nostre finanze, che senza di Lui noi non avremmo un euro nella nostra vita. E siccome sono Suoi, noi li vogliamo ridare a Lui, perché crediamo che Lui li sa usare molto meglio di noi per la Sua gloria. Amen? E io dono qui, tu doni qui in questa famiglia, perché credi che in questa famiglia i tuoi soldi possono essere utilizzati per l'avanzamento non di una casa più bella, non solo di una casa più bella, ma per raggiungere ogni persona che non conosce il Signore, per conquistare territori che non abbiamo ancora conquistato, per essere un aiuto a Modugno in tutte le famiglie che il Signore ci ha da benedire. Amen? Siete con me? Vediamo il video insieme. Che cos'è per te dono perché amo? La possibilità di vivere un miracolo che il Signore ha in serbo per noi come famiglia e per la sua grande chiesa. Il verbo dare a cosa ti fa pensare? Beh, dare a volte può portare gioia, ma contribuire al successo che il Signore ha per la nostra chiesa, come diceva appunto Grazia, per me è qualcosa di molto grandioso, sono molto felice di farne parte. Qual è stata la cosa bella e sorprendente che avete vissuto per questo evento come famiglia? La cosa bella è stata molto sorprendente per noi, che il Signore ci ha parlato indistintamente, allo stesso modo, dandoci la stessa cifra per cui noi abbiamo donato e ci ha uniti ancora di più nella preghiera. Qual è stata la sfida più grossa? La sfida più grande è stata per me quella di sfidare il Signore, perché come è scritto nella sua parola, mettetemi alla prova, e io l'ho fatto e il Signore mi ha risposto grandemente su questo, per cui mi ha aiutato a dare la decima. Per questo non è stato un peso dare anche il contributo per questo dono miracoloso. Questa occasione mi ha insegnato molto ad avere sempre più fede in quello che è Gesù Cristo, in quello che Dio può fare per noi. Se noi conosciamo un Dio che è capace di guarire, è lo stesso Dio che è capace di provvedere ad ogni nostro bisogno, anche quello finanziario. Questo mi ha insegnato il Signore, a sfidare Lui, a credere in Lui e a credere in quello che è scritto nella Sua parola. Sono una figlia molto benedetta. Se ho imparato il valore dei soldi, lo devo ai miei genitori. Se ho imparato il valore della fedeltà nel dare, l'ho imparato dai miei genitori. E questa è una benedizione che Dio ha messo sulla nostra famiglia. E vi posso dire, ve l'ho già detto più volte, che i miei genitori sono così stati fedeli nell'insegnarcelo, che per noi è ormai così bello e naturale. E noi viviamo in questa benedizione. Grazie per chi siete, papà e mamma. Poi dite a loro a chi assomiglio di più. C'è una guerra ancora che dura da tanti anni. C'è qualcuno che dice che ho il carattere di papà. Purtroppo. Che dire. Sono dei genitori fantastici. Il nostro pastore ha predicato la settimana scorsa su un verso e dando una direzione chiara a questo nuovo anno, una parola profetica per questo nuovo anno che è... Corri. Corri, corri. A quanti non piace lo sport? Vattene da questa chiesa, perché in questa chiesa si corre. Corri, corri. Dio ha dato questa parola profetica al nostro pastore, corri, con un verso molto specifico e voglio rileggerlo perché da qui cominciamo per il messaggio di stasera ed è in Ebrei 12:1, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta dinanzi. Abbiamo una gara. Ci sono territori nuovi da conquistare. Io voglio vedere territori nuovi. Tu sei in aspettativa per quest'anno? Ogni anno, alla fine o all'inizio, ora siamo alle prime due domeniche dell'anno, ci sono queste fasi, no? Io le vivo profondamente. Quali sono le cose che sono andate bene l'anno scorso, no? quello che è mancato, quello che non andava bene, e che cosa... vuoi portarti nel nuovo anno e quali sono le tue aspettative per il nuovo anno? Io ho una lista di obiettivi per ogni anno, ce l'ho a 2, a 5, a 10 anni, a 20, a 80, perché oltre 80 poi basta. E per quest'anno, quali obiettivi il Signore ha messo nella tua vita? Il messaggio di oggi si chiama Vecchio e Nuovo, perché ci sono delle cose del vecchio anno che è importante che ci portiamo, e delle cose del nuovo anno per cui è importante che corriamo. Amen? Ci sono tante cose che sono vecchie nella nostra vita, che usiamo fare, che abbiamo come abitudini di vivere, ma poi ci sono tante altre cose nuove. E la Bibbia ci insegna in Ebrei a lasciare i nostri pesi, a lasciare i nostri peccati e a correre. A correre quella gara verso quelle cose nuove. Ma hai imparato a correre nelle cose che hai già vissuto, perché è lì che hai cominciato e hai imparato a dare la tua velocità alla tua corsa. Quindi vecchio e nuovo. Che cos'è vecchio e nuovo? Prenderemo un verso, anzi una storia, che conosciamo tutti. Se non lo conosci, lo puoi leggere. Si trova in 1 Samuele 17, è la storia forse più famosa della Bibbia, che è, ditemelo voi, queste sono come le domande del pastore Pinuccio. Nessuno risponde. Davide contro Davide contro Golia. Quante volte hai sentito predicare su questo messaggio, su questa parte della Bibbia? Io personalmente avrò predicato almeno 10 volte su questa storia, però credetemi, in questi giorni ho chiesto perdono a Dio per aver pensato ed avuto rivelazioni di questa storia così riduttive rispetto a quello che sto scoprendo in questi giorni e che voglio scoprire con voi. Perché questa storia è una storia che si predica negli upside down, vero? Per forza. Upside down, quante volte mi avete sentito predicare su questa storia a me o a qualcun altro? Un sacco. E forse la prima storia dopo Giovanni 3,16 che hai imparato, ok? Ma perché? Perché è una storia in cui un ragazzo combatte una battaglia assurda. E tutti quanti noi predichiamo, viviamo questa storia, abbiamo rivelazioni di questa storia quando davanti ad un gigante. Quando arriva un gigante nella nostra vita, identificato spesso con qualcosa di più grande di noi, che non riusciamo a combattere, che non riusciamo a vincere, noi attingiamo ad 1 Samuele 17, vediamo come ha fatto Davide, e impariamo che Davide lo ha fatto con delle pietruzze, con la sua fionda. Ora, io non ho vissuto la mia infanzia nella chiesa, ma so che la maggior parte della chiesa ha in mente in questo momento la canzoncina che fa... Fatemela sentire! Come il compleanno del pastore. Credete nel Signor e con 5 pietrine vi affronto. È tutto, ve lo dico. C'è pure il video. E girondolo ancora. La pietrina prese il volo e il gigante vi crollò. Bellissimo! Siamo una chiesa ripiena di Spirito Santo che canta le canzoni bellissime. Io non la conosco, pastore, grazie per averci erudito anche in questo. Ci sarà un video su YouTube, avremo più visualizzazioni di quelle mai avute in vita nostra come chiesa. Tutti quanti andiamo a cliccare, no, scherzo. Tutti conosciamo questa storia, ce l'ha insegnata da piccoli, tutto quanto, ma oggi non ve la voglio raccontare, prenderemo solamente dei piccoli passi. Ma Dio ha parlato al mio cuore in maniera particolare per questo periodo della Chiesa, per questo periodo iniziale dell'anno e in seguito alla parola che Dio ha dato. Vogliamo pregare un attimo ancora? Metti un braccio sulla persona che è vicino. Signore, grazie perché tu sei con noi e tu, Padre, ci parli attraverso la tua parola e ti chiedo di rivelare al nostro cuore con potenza e con autorità quello che tu vuoi insegnarci da questi pochi versi che leggeremo nel tuo nome, Gesù. Amen. 3.000 anni fa circa c'era un ragazzo, un adolescente, che venne chiamato ad andare in un luogo di guerra in cui i suoi fratelli stavano combattendo. E stavano combattendo una guerra tra il popolo dei Filistei e il popolo di Dio, il popolo di Israele. Questo popolo di Israele era guidato in quel momento da Saul, il primo re che Dio ha dato al popolo di Israele. Dall'altra parte c'era un popolo molto particolare che in questa guerra ha messo davanti il suo miglior guerriero, un uomo di nome Golia, alto circa 3 metri e che pesava con tutta l'armatura più di 200 kg, e questo guerriero ogni giorno per 40 giorni usciva nella valle in cui c'era la guerra e cominciava a bestemmiare il nome di Dio, ad ingiuriare il popolo di Dio e a chiedere a chiunque si fosse fatto avanti per combattere questa guerra. Questo ragazzino, un piccolo pastore, pascolava proprio delle pecore, viene mandato da suo padre, Isai, a portare pane e formaggi ai fratelli. E quindi era il ragazzo della pizzeria, ok? Quello che suonava al citofono diceva pizze, e lui è arrivato nel campo nemico, anzi nel campo, e ha detto c'è pane e formaggio per i miei fratelli, devo andarli a vedere. E quando arriva, vede questo guerriero e dice, ma chi è questo filisteo incirconciso che osa schernire il popolo di Dio? E lì chiaramente cominciano tutti a mormorare. Ma Davide ha preso molto seriamente quello che ha visto, tanto che si fece lui avanti e andò come volontario per combattere questa guerra. Sapete, c'era un esercito di migliaia di persone, ma lui, un ragazzino adolescente, pastore, ha scelto di mettersi al fronte e di combattere questa guerra. La storia va avanti, se non la sai ti invito a leggerla. Lui ha scelto la sua arma, e la sua arma erano delle pietre di una fionda, e Davide arriva davanti a quest'uomo, e 5 pietre che lui aveva, ne riesce a scagliare solo una, perché ne bastò una per colpire quest'uomo in piena fronte ed abbatterlo completamente e ucciderlo. Una pietruzza ad un uomo di 3 metri e 200 kg. Questa è la storia, una storia straordinaria, una storia che vedremo in qualche film epico o di guerra, tipo quelli che piacciono a mio marito, insieme a tanti altri. Ma quello che c'è da imparare di questa storia è che prima di tutto Davide arrivò lì e fu profondamente indignato dal fatto che ci fosse un peccatore filisteo incirconciso ad ingiuriare il popolo di Dio. Davide arrivò e vide le circostanze non come migliaia di persone le stavano vedendo, ma le vide diversamente. Che cosa non è questa storia? Questa storia non è la storia di un ragazzo coraggioso. Tutti quanti noi pensiamo, oh, come ha fatto Davide? Io voglio essere così, voglio arrivare, cambiare la storia e portare il formaggio a casa. E diventare anche re, se è possibile. Questa non è, no, non so come l'avete vista voi, ma per me in quella storia Davide è un po' come Rocky Balboa di fronte al tipo, e Golia è il tipo che dice ti spiezzo in due. E quindi Davide che fa? Corre sulle scale con la musichetta. Chi me la fa la musichetta? Io me lo vedo che arriva, sceglie le pietre e poi... Chi con me? Non sono solamente io malata, meno male, grazie Signore. Però questa non è questa storia, non è una storia su un ragazzo coraggioso, non è una storia su un nemico forte. Non è questa, ma che cosa è questa storia? È certamente la storia di un ragazzo coraggioso chiamato a combattere con un nemico forte, ma questa è prima di tutto una storia di guerra spirituale. Non era una guerra naturale tra il popolo dei Filistei e il popolo di Israele, ma è la storia di una guerra spirituale. E sapete, questo principio è stato nascosto e non l'hanno visto migliaia di persone. Migliaia di combattenti del popolo di Israele erano lì e vedevano un uomo grande, un uomo forte, un uomo difficile da sconfiggere, e poi arriva un ragazzino che fa di mestiere il pastore di pecore e vede quest'uomo, ma non vede un uomo, vede una battaglia spirituale in cui c'era il popolo di Dio, il popolo scelto, Dio stesso, ingiuriato da un peccatore. C'era una battaglia tra degli dèi bugiardi e il Dio vivente. C'era una battaglia tra il Dio vero e gli dèi fasulli dei Filistei. E questo principio non fu chiaro a nessuno fino a quel momento. Quindi questa è una storia di guerra spirituale. Chiesa, non ignoriamo che quello che viviamo non ha mai niente di naturale. Se tu ti vedi davanti ad una battaglia e vedi quella battaglia e la inquadri con gli occhi naturali, stai perdendo il 99% del significato di quella battaglia. Chiesa, quella che stiamo vivendo come Chiesa in questo momento non è una battaglia contro carne e sangue, ma è una battaglia contro i principati e contro le potestà che si alzano e che non vogliono il successo del popolo di Dio. Amen? Sei con me, Chiesa? Sei con me, Chiesa, veramente? Questa è una battaglia spirituale nella quale ognuno di noi è in questo preciso momento, ma insieme lo siamo come Chiesa. Non ignorare quello che c'è. Non ignorare quello che c'è dietro. È molto semplice dare la colpa alle cose naturali, alle persone, ai fatti, alle coincidenze, ma è così stupido farlo. Perché quello che è vero è che noi viviamo in una battaglia spirituale. Efesini 6:12, Paolo dice, ditemelo voi, la vostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà e tutte le fortezze che si ergono ai luoghi celesti, eccetera, eccetera. E poi ci dà un'armatura. Quella che stai vivendo non è una battaglia naturale. Leggiamolo in 1 Samuele 17, Davide dice, rivolgendosi a quelli che erano vicini, in 1 Samuele 17, 26, che si farà dunque all'uomo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Quando vivi una battaglia spirituale è importante riconoscerla e confessarla. Non ha detto chi è quest'uomo alto e forte che sta lì ad impaurire con costanza. Chi è questo filisteo incirconciso perché non faceva parte del popolo di Israele che osa insultare le schiere del Dio vivente? Chiesa, questa è la battaglia spirituale. C'è un mondo celeste dalla nostra parte. Ci sono delle autorità contro di noi, che non vogliono il tuo benessere, che non vogliono il benessere di questa chiesa, che non vogliono il benessere della tua famiglia, ed è buono che noi ci svegliamo. Perché la chiesa non è gloria a Dio e alleluia, ma che bello, ma oggi non mi piacciono le canzoni. No, dal momento in cui tu accetti Gesù nella tua vita, tu scegli di vivere una battaglia spirituale. E noi viviamo in una battaglia spirituale, per gli upside down, due regni e due re, tu sei al centro. E scegli ogni giorno di vivere questa battaglia. Chiesa, il mio scopo nella vita è svegliarmi ogni giorno e voglio far dire a Satana, mannaggia, si è svegliata di nuovo. Chiesa, noi dobbiamo dare fastidio. Noi stiamo dando fastidio. Noi stiamo vivendo una guerra perché vogliamo conquistare nuovi territori. Amen? Amen? Questa è una storia che ci racconta di un nuovo livello di conquista. Nuovi territori prevedono nuove battaglie. Nuove cose da conquistare prevedono nuove guerre. E in ogni nuova guerra c'è un nuovo nemico. È come chi gioca ai videogiochi, ogni livello ha un mostro più difficile da atterrare. È come se il livello nuovo appartenesse ad un nuovo nemico che devi sconfiggere completamente per conquistarlo e poi andare avanti. Ma non è che nel nuovo livello è tutto rose e fiori, ci sono nuovi nemici, nuove cose da dover fronteggiare. Se sei stanco di affrontare una battaglia vuol dire che sei morto. Perché solo quando muori smetti di combattere. E quando muori spiritualmente stai messo male. Sei messo molto male. Siamo messi male se ci siamo stancati di fare battaglia. Noi vogliamo conquistare nuovi territori, Chiesa. Nuovi territori sono uguali a nuove conquiste. Sapete, Davide era lì e aveva una certezza. Il leone ha una fede di un metro e io lo ammazzo. L'orso, io ho una fede di 2 metri e io lo ammazzo. Golia, io ho una fede di 3 metri e io lo ammazzo. Sapete, la vita di Davide non è finita con Golia, non è stato l'ultimo suo nemico. È una delle vite più travagliate che io abbia mai vissuto, e tutta la sua storia in 1, 2 Samuele, eccetera. Lui ha vissuto lutti in famiglia, ha vissuto incesti in famiglia, gli è morto un figlio, suo figlio ha avuto un incesto con sua figlia, ha ucciso una persona, ha combinato di tutto, ha perso diverse guerre, ha vinto tante guerre. Non si è fermata a 3 metri di fede, ma è andata avanti. Ma ogni conquista prevede un livello e ogni livello prevede una fede diversa. Oggi sei ad 1 metro, ok, domani sarai a 2 metri, dopodomani sarai a 3 metri, perché ogni nuovo territorio prevede delle nuove conquiste. Questa è una storia che ci racconta di avere una giusta fonte di coraggio. Qual era la fonte di coraggio di Davide? Non era certamente la fionda, non era certamente il suo passato, non era certamente la sua strategia. Non erano i suoi fratelli, non l'hanno manco calcolato, anzi gli hanno detto, ma che stai facendo? Non era il re. Saul ha messo una corazza su di lui molto più grande di quella di cui lui aveva bisogno e se l'è tolta. Ma la sua fonte di coraggio la leggiamo nel verso: il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. E Davide aggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. 1 Samuele 17:36-37. Chiesa, questa è la fonte di coraggio di Davide. La fonte di coraggio di Davide era Dio. Quindi non è una storia di un uomo coraggioso, è la storia di un uomo che ha confidato nella cosa giusta, che è Dio. E sapete, in questa parte della parola di Dio, Davide usa il nome di Dio 2 volte, ma lo usa in maniera distinta, perché in 1 Samuele 17:36 dice: perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. E la parola precisa di Dio è Dio Elohim. E dopo ha detto, Davide aggiunse: è il Signore, Yahweh, che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Davide ha detto: Elohim, il Dio vivente, è uno dei nomi di Dio. Elohim è il Dio dei viventi ed è il Dio vivente ed è il Dio che vive. E Yahweh mi liberò dalla zampa del leone. Yahweh è il Signore, era il nome impronunciabile di Dio, è colui che ha controllo su tutto, è l'autorità massima, è il leader, il capo, Yahweh, che mi liberò dalla zampa del leone e dalla mano dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Dove vai ad attingere? Da quale fonte vai ad attingere? Quando vivi una battaglia, dove vai a prendere la tua forza? La prendi dalle altre persone? La prendi da te stesso? La prendi da chi sei? La prendi dai tuoi soldi, dal tuo lavoro? O la stai prendendo da Yahweh ed Elohim? Chiesa, questo è il momento per noi come Chiesa di prendere la nostra sicurezza, la nostra fiducia in Yahweh e in Elohim. È lo stesso Dio che ci ha fatto vincere nelle cose passate, ci farà vincere nelle cose future. Amen? Amen? Sapete, Davide ha dovuto combattere con le sue emozioni. Pensiamo che Davide non abbia proprio paura. A volte pensiamo queste, ma è impossibile. Sapete, è un istinto naturale la paura, è una reazione fisiologica che ognuno di noi ha. Cioè Dio ci ha creato con la paura, che è una protezione per noi, perché davanti alle difficoltà, davanti alle situazioni particolari, la paura, che proprio viene prodotta chimicamente dal nostro corpo, viene fuori. Pensiamo sempre che Davide non ne sappia niente della paura. Invece no, Davide ha combattuto con un leone. Oh, ragazzi, ma qualcuno di noi ha avuto mai l'esperienza di combattere con un leone? Ti sei mai trovato davanti ad un leone? Tranne che allo zoo safari, ti sei mai trovato davanti ad un orso? Io sono stata attaccata durante la notte da un orso e ho visto, mamma stai tranquilla, quando ero in Canada c'erano gli orsi ed eravamo in una baita in montagna e la mattina dopo vedemmo che le macchine erano sfasciate, le case erano proprio tutte raschiate. Ho avuto una paura bestiale solo a vedere quello che l'orso aveva combinato dopo che era passato. Ma io non ho mai combattuto con un orso. E davanti ad un uomo che è alto 3 metri. Pensiamo che Davide non abbia avuto paura. In realtà Davide era così abituato alla paura che la teneva bada. E quando arrivava, sapeva che doveva zittirla e cominciare ad attingere ad un'altra fonte. Tutto di noi, quando siamo nei combattimenti, grida paura, pericolo, stai attento. Ma è la nostra parte spirituale, che è la nostra parte rinnovata, deve gridare: da dove la vado a prendere? Da dove prendo questo coraggio? Come lo faccio ora? Ed è lì che il nostro Elohim, che il nostro Yahweh, deve prendere tutta la sua potenza. Amen? È il nostro Dio che combatte le battaglie per noi, Come ha detto Marta prima, Dio sarà con noi sempre, il nostro Dio che combatte queste battaglie. E qual è questa fiducia che Davide aveva in Dio? Davide aveva una fiducia. Come Dio mi ha protetto dal leone e dall'orso, lo farà anche da questo. Esistono sempre nuove sfide, sempre nuove battaglie, sempre nuove difficoltà, sempre nuovi territori da conquistare. Allora ci sono delle cose che devono essere nuove. Però, Chiesa, dobbiamo attingere dalle cose vecchie. E le cose vecchie sono le strategie con cui abbiamo già fatto delle cose. Quali sono state le strategie con cui tu hai sconfitto il tuo leone? L'hai sconfitto? Hai avuto delle buone strategie? Hai avuto un buon modo? Se no, oggi lo puoi avere. Non preoccuparti. Se hai fallito nel tuo passato, nell'affrontare le battaglie, oggi è un nuovo giorno. Con Dio oggi è un nuovo giorno, sempre. E quindi oggi Dio ti vuole dare speranza, perché tu combatta la tua battaglia forse con il tuo leone inizialmente e la vinca bene. Ma per te che hai già vinto bene con il leone e con l'orso, ma pensi che Dio ti lascerà da solo davanti al gigante? Non dimentichiamoci che noi abbiamo Yahweh ed Elohim. Noi abbiamo Yahweh ed Elohim. Noi abbiamo, tu sei figlio, tu sei figlia di Yahweh ed Elohim. Non c'è niente di più grande di questo. Non c'è niente di più grande di questo. Davide aveva sconfitto con l'aiuto di Dio già il leone e l'orso. Per questo non aveva paura di Golia, perché sapeva che quel Dio fedele, il suo Dio fedele, si sarebbe alzato ed avrebbe battuto lui ogni gigante più grande. Amen. Ti piace, Chiesa? Sai, anche Saul aveva già avuto delle vittorie. Saul aveva già vinto una guerra con gli Amalechiti. Aveva già visto Dio operare con il suo popolo. Quindi quell'esercito sapeva già che poteva vincere. Però se lo sono dimenticati. Come mai solo Davide si è ricordato che ha già vinto con il leone e con l'orso e quindi avrebbe potuto vincere col Filisteo? La tua relazione con Dio ti fa ricordare le tue vittorie passate. Sai, l'intero Vecchio Testamento era per ricordare, e lo troviamo sempre, l'Iddio che è stato con Abramo, Isacco e Giacobbe, l'Iddio che vi ha fatto uscire dalla mano degli egiziani, che vi ha liberato dalla mano degli egiziani, l'Iddio che vi ha liberati dal Mar Rosso, vi farà superare anche il Giordano. Amen? Il nostro Dio ti invita e ci invita a ricordare. Ed è nel lodare Dio, ed è nel ringraziarlo per le cose vecchie, che noi prendiamo forza per le cose nuove. Ed è nel ricordare, lo voglio dire di nuovo, è nel ricordare e nel lodare Dio per le cose vecchie che abbiamo già vinto, che prendiamo la forza per combattere le nuove sfide. Amen? Quindi vecchie cose, nuove sfide, vecchie strategie, nuovi territori, vecchie vittorie, perché da lì traiamo la forza. Questa Chiesa sta combattendo in nuove sfide, in nuove battaglie. E il Signore è stato con noi per 40 anni, fedele, sempre, con leone, con l'orso, e certamente lo sarà davanti al Filisteo. Questo lo voglio confessare sulla tua vita. Il tuo Dio ti ha fatto vincere con il leone e con l'orso. Certamente ti farà vincere contro il Filisteo. Amen. Come ha vinto Davide? Come ha vinto Davide? Ditemelo voi. Queste sono le domande del pastore Pinuccio. Io ho una regola: quando il pastore Pinuccio fa le domande, non rispondere mai, perché tanto non è mai quello che dico io. Quindi, però dai, facciamolo. Con cosa ha vinto Davide? Con la pietra? Ha vinto confessando parole profetiche. Volete sapere la confessione di Davide? 1 Samuele 17,45. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Ascolta ora. Così ha vinto Davide. Questa è l'arma di Davide. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. E ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra, così tutta la terra riconoscerà che c'è un solo Dio. Non distrarti, Chiesa. Prendilo per te questo ora. Davide ha vinto con la parola, ha ancora detto, e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle vostre mani. Una piccola cosa. Davide ha detto, e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore è il Dio degli eserciti. Chiesa, non pensare mai alla tua battaglia, che è la tua sfida, che è il tuo nemico, che è la tua situazione, che è il tuo combattimento, perché quello che vivi tu è mio. Quello che vivo io è tuo. Quello che noi viviamo è nostro. Quello che tu vivi e pensi di viverlo nella singolarità, nell'indipendenza, nella solitudine, ti stai sbagliando di grosso. Perché è una battaglia per tutti quanti. E la tua vittoria è la vittoria per tutti quanti. E il tuo fallimento è il fallimento per tutti quanti. Vivo costantemente con l'idea che devo combattere per me stessa, perché io devo essere di esempio per tante altre persone. E questo mi fa combattere con più forza, con più radicalità, con più fermezza. Perché devo salire qui e, a differenza di quello che possiate pensare, devo potervi raccontare tutto quello che vivo nella mia vita e dire: fai come me. Questo è quello che crede il pastore, questo è quello che crede la leadership di questa chiesa, che chi sale sul palco deve poter dire: fai come me. Fai come me nelle battaglie, fai come me nelle sconfitte, fai come me nelle vittorie. Questi siamo noi. E questo lo voglio dire in particolar modo ai leader. Se hai preso una posizione di influenza su altri, le tue vittorie sono le vittorie per tutta la Chiesa. Le tue battaglie sono le battaglie di tutta la Chiesa. E questa è una parte della medaglia. Ma l'altra parte della medaglia è che non sei da solo. Perché ci siamo noi. Perché quando io mi sto stancando, c'è Lidia che mi dice: oh Sara, ma ti ricordi chi hai vinto? E Chiesa, io credo fortemente che ognuno di noi abbia estremamente bisogno di avere qualcuno che nelle battaglie ti dice: oh, ce l'hai fatta con l'orso! Ma com'è? Ti stai scoraggiando davanti al leone! Ma dai! E questo è il potere bellissimo del discepolato, dei gruppi, dell'intimità, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, della leadership, avere qualcuno non solo con cui condividere le battaglie, ma che ti dice: oh, ce l'hai già fatta, ce la farai certamente ora. Per quello noi crediamo nel valore di essere aperti e di non avere niente di nascosto. La Bibbia dice che noi siamo nudi davanti a Dio. Io credo che sia molto importante essere nudo davanti a qualche persona e di essere trasparente, di dire: senti, non ce la faccio, per piacere. E io sono benedetta dall'avere qualcuno che mi dice: oh, ce l'hai già fatta. Ti ricordi com'è andata lì? Ti ricordi come hai fatto quello? Ti ricordi quanto Dio è stato già fedele nella tua vita? Certamente lo farà ora. Quindi oggi il mio invito, Chiesa, è a chiederti di non chiuderti nelle tue battaglie, nel tuo isolamento, nella tua bugia, perché Satana usa questa guerra contro di noi per dividerci, per separarci, per renderci più deboli, perché quando siamo insieme siamo più forti e gli facciamo più paura. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Non ignorare che sei in una battaglia spirituale. Attingi alla vera fonte del coraggio. Prendi di esempio le tue vecchie battaglie e vedi come Dio ha operato in quelle cose vecchie, ma anche confessa. usa le tue parole per zittire la bocca del nemico, usa le tue parole per guardare quella situazione come ha fatto Davide e inquadrarla, ma anche dire come va a finire, confessare come va a finire. Come vuoi che vada a finire nella tua situazione? Come vuoi che vada a finire con la Chiesa? Come vuoi che vada a finire con la tua battaglia con il gigante? Come vuoi? Te lo chiedo, come vuoi che finisca? Qual è la conclusione della storia? Sai, Davide conosceva profondamente il suo Dio e l'ha potuto dire. Io so che oggi stesso ci saranno tanti cadaveri. Io so che oggi stesso questa moltitudine vedrà chi è il Dio vivente. Chiesa, hai bisogno di dirlo? Io sì, perché mentre lo dico me lo ricordo e mentre lo dico lo ricordo agli altri. E se gli altri sono scoraggiati, glielo posso dire io. Come vuoi? Chi è il leader nella tua situazione? Il tuo nemico? Che si impaurisce e si blocca per 40 giorni davanti a quel nemico? O sei tu? O sei tu che credi in Yahweh, in Elohim e dice la so io come va a finire la storia. Te lo dico io, glielo dico io a questa situazione come va a finire. Perché tutti devono riconoscere che il mio Dio è un Dio vivente. Amen? Sei pronto a confessare, Chiesa? Io non voglio chiedere, io oggi non voglio fare un appello di chi sta vivendo in una situazione difficile, perché tutti alziamo le mani. Io so che se non stai combattendo forse oggi con un Golia, certamente stai combattendo con un leone o con l'orso. E questo è uno di quegli appelli in cui devi fare gli appelli a chi non la sta vivendo. Ed è impossibile, la settimana scorsa eravamo tutti quanti qui davanti, tutti, compresa la leadership, tutti noi eravamo qui davanti per lasciare pesi e peccati e correre. Oggi ti voglio chiedere di fare un passo in più e di confessare. Confessa la tua fede, usa le tue parole per dire alla tua situazione come deve andare a finire. Mettilo tu il finale, per fede, profetico. Metti il tuo finale confessando chi è il tuo Dio e dicendo a tutto il resto, io ho un Dio vivente. Io ho un Dio che è vivo, amen? Quindi Chiesa, alziamo la nostra voce e combattiamo, combattiamo. Se conosci la situazione di qualcuno, combatti per quel qualcuno. Combattiamo insieme, alziamo la nostra voce e confessa per fede come andrà a finire, amen? Non sento le nostre voci, alziamo la nostra voce. Alza la tua voce, alza la tua voce, alza la tua voce. Upside down, fatemi sentire la vostra voce. Alziamo la nostra voce nelle situazioni, Signore.